E occhio uno stella, carino piccolino con lo sguardo della bambina. Io non lo so, no, no, no, per un dono solo no, impazzerò. Hey, hey, signorina, conosco una parchina dove non si fa attenzione perché c'è che l'emozione. Ti voglio baciare e rubare, e poi potevo fare l'emozione dell'amore. You know I'm searching for sweet emotion. L'emozione ti voglio baciare e rubare per poter parlare per le zone dell'amore tu.